Aspettano, all'ombra degli alberi, il proprio turno per farsi registrare e avere i documenti per partire. Qui non vuole restare nessuno. Arrivano di notte i profughi. La Turchia di Erdogan ha stretto sui controlli perché tra qualche giorno sarà festa nazionale musulmana e sulle spiagge di Bodrum si sono riversati i turchi ricchi che non vogliono vedere barconi, tantomeno ritrovarsi sulla sabbia i corpi che il mare pietosamente restituisce. Ripartono in fretta i profughi, soprattutto i siriani, hanno il denaro per il traghetto, iracheni e afghani non hanno le stesse possibilità. Ma questa resta la via più semplice per entrare in Europa. Ankara ha quasi 2 milioni di rifugiati, non ostacola le partenze, e lo specchio di mare da attraversare è talmente piccolo. Roberto Mignone è il capo staff emergenze dell'UNHCR. Su quest'isola sono arrivati quest'anno più di 35.000 persone, praticamente corrisponde a tutta la popolazione che esiste sull'isola di Greci durante l'anno. La maggior parte degli arrivi sono siriani, iracheni, afghani, cioè che vengono da paesi che producono rifugiati, e poi ci sono anche dei pakistani e del Bangladesh che probabilmente sono migranti economici. Nelle settimane passate ricevevamo 1.000-1.500 persone al giorno e la capacità di registro era della polizia per dare i documenti perché potessero partire era di circa 150-200, la gente doveva aspettare anche 2-3 settimane per essere registrata, c'erano centinaia di persone fuori dalla stazione di polizia, c'erano incidenti di sicurezza. Adesso la situazione è molto migliorata, diciamo da una decina di giorni, per il fatto che ci sono più controlli dal lato turco, essendo che c'è una festività musulmana e quindi arrivano meno persone, più o meno 200-400 al giorno. Poi il sistema di registro è migliorato perché fanno il registro di notte. Quindi la maggior parte dei passi del sistema di registro sono fatti al porto e poi vengono qui alla stazione di polizia e devono prendere le impronte digitali, quindi va abbastanza veloce. Hanno anche aumentato il numero di poliziotti che registrano e poi permettono da una decina di giorni a noi del UNHCR di partecipare in questo processo, quindi siamo all'entrata, organizziamo le liste, informiamo i rifugiati, cerchiamo di dare priorità ai casi vulnerabili, quindi diciamo questa combinazione di fattori fa sì che adesso la gente aspetti solo un paio di giorni per avere il documento. Come ha reagito COS dal punto di vista delle istituzioni, quindi il sindaco, la polizia, perché insomma la polizia greca lo sappiamo non è proprio tenera? Ma guarda, io sono qua da un mese e da quando sono arrivato ho offerto e proposto al sindaco e alle autorità locali di montare un centro di accoglienza dove la gente potesse stare in condizioni degne e sicure, dove il registro potesse essere fatto in condizioni più efficienti che qui alla stazione di polizia. Ho ordinato anche dalla Polonia 300 casette prefabbricate da mettere in questo centro, ho dovuto fermarle, bloccarle a Atene, dove stanno in questo momento, perché non ci hanno dato un metro di terra per poter fare questo centro di accoglienza dove la gente sarebbe stata 2 o 3 giorni. Quindi è una situazione un po' assurda, nella quale noi veniamo qui per aiutare, offriamo tutto l'appoggio possibile e c'è un rifiuto da parte delle autorità locali soprattutto di ricevere questo aiuto, quindi la gente continua a stare per le strade in condizioni indegne, insicure anche perché alcuni rifugiati sono stati attaccati da estremisti anti-immigrazione, è una situazione esplosiva. Adesso il fatto che sia migliorato un po' non vuol dire che la situazione sia risolta, è molto fragile la situazione a partire da quando finisce questa festa musulmana il 27, facilmente possono arrivare 1.000, anche 2.000 persone al giorno perché si sarà accumulato un gran numero di persone che aspetta. Kos è la quarta destinazione turistica in Grecia. Anche adesso, a settembre inoltrato, ci sono tanti turisti che continuano a girare in bicicletta, affollare le spiagge, passeggiare tra le tende dei profughi. Ancora qualche settimana e poi il mare comincerà ad essere più insidioso. Orfano Dakis è il team leader di Medici Senza Frontiere. The main problem in Kos, but also in the Dodecanese Island, which is a complex of islands in the South Aegean, is that there is no reception system in place. So when migrants and refugees arrive, il problema più grande qui in tutte le isole del Dodecaneso, dice, è che mancano centri di vera accoglienza. Queste persone arrivano e non hanno un posto dove stare, non hanno servizi igienici, ombra per ripararsi, sono abbandonati a loro stessi. Il futuro porterà altri problemi, perché con l'inverno diventerà molto più pericoloso attraversare il mare. Le autorità si rimpallano le responsabilità, afferma, sia quelle locali che quelle nazionali ed europee. Il sindaco non ha voluto un centro di accoglienza stabile per paura che questo potesse invogliare altri a venire. Ma anche l'Europa è assente. Si preoccupano della sicurezza dei confini e non dell'accoglienza. Giocano nell'acqua e sulla lingua di sabbia davanti alla stazione di polizia i bambini di queste famiglie arrivate qui non sempre tutte intere. Fanno il bagno vestite le bambine, altre giocano con la terra tra le tende. Su un armadio improvvisato c'è uno scoiattolo di peluche. I servizi igienici che hanno a disposizione sono lunghe serie di bagni chimici e due tubi da cui l'acqua esce a getto continuo. La fila per la doccia a cielo aperto non manca mai. Cercano di difendersi da occhi curiosi. Non hanno molta voglia di parlare, ma si lasciano avvicinare dai turisti che vogliono dare una mano, anche solo portando bottiglie d'acqua o suonando per loro. Dimitris, che fa parte dello staff di Medici Senza Frontiere, mi racconta che nel settembre di un anno fa loro erano gli unici a essere qui. Non c'era nessun'altra organizzazione, nessuno. A gennaio avevano avvertito il governo greco che questo sarebbe stato un anno eccezionale per gli sbarchi, ma nessuna misura è stata presa. Prova a ricordargli che la Grecia attraversa una crisi economica senza precedenti e lui, che è greco, mi risponde che questa non è una valida giustificazione. Il rapporto con l'Europa e le istituzioni europee è difficile, ambivalente, me lo spiega Roberto Mignone. A livello locale abbiamo la presenza di Frontex, che è un'istituzione europea che controlla le frontiere e stanno aiutando la polizia. Quindi diciamo stanno svolgendo un ruolo positivo. Sicuramente ci sarebbe bisogno di più aiuto da parte dell'Unione Europea, anche con altri mezzi, fondi. Abbiamo avuto qua la visita del signor Timmermans, il vicepresidente della Commissione europea, e del signor Avramopoulos, il commissario europeo per l'immigrazione, che tra l'altro è greco. Io ho avuto modo di fare una presentazione a loro e ho spiegato chiaramente la necessità di avere questo centro di accoglienza e hanno assolutamente detto, quando stavano partendo in pubblico, che qua ci sarà un centro di accoglienza il prima possibile. E nonostante questo le autorità locali riescono a mettere in stallo praticamente anche l'Unione Europea, le Nazioni Unite, tutti quelli che vorrebbero aiutare. Questo a livello locale. A livello generale sì, sarebbe necessario avere un numero molto più alto di posti per la ridistribuzione, però a parte questa situazione contingente, ma l'UNHCR, l'Alto Commissario Gutierrez, da sempre sostiene che ci dovrebbero essere più vie legali per poter arrivare in paesi dove la gente si sente sicura e può avere una vita più degna, quindi più posti di resettlement, che è il programma dell'ACNUR per mandare persone vulnerabili a terzi paesi, più visti umanitari, riunificazione familiare con criteri più flessibili e soprattutto più rapidi, visti per studenti, quindi se ci fossero più vie legali la gente avrebbe una speranza prima o poi di riuscire ad arrivare e lo farebbe in maniera ordinata, graduale, quindi anche la capacità di ricevere dei paesi europei non sarebbe, diciamo, messa in questione. I locali che si affacciano sul mare diffondono musica tutte le ore, una musica soffusa. Il mare sovrasta Over the Rainbow, che resta relegata in sottofondo. Per molti dei profughi che passano di qui, Kos è già un traguardo. Non sanno cosa li aspetta alle altre frontiere europee, ma sanno cosa si sono lasciati alle spalle. Come Kamran, che per l'Europa non è un rifugiato, lui è scappato dall'Iran. I'm from Iran. It was my travel. Yeah? It was all about 5 days. Yes. I didn't pay so much money because il viaggio è stato tranquillo, mi racconta. No, non ho pagato molto. Io sono single, non ho famiglia, non ho bambini. Sono arrivato in Turchia, ma se fossi rimasto là non avrei avuto alcuna possibilità, perché è un paese islamico e gli islamici non tollerano chi non crede nell'Islam. Dove vuoi andare? Gli chiedo. Ovunque, mi risponde. Davvero, per me non è importante il paese. L'importante è che non si comportino come quelli islamici. Per altri, però, qui a Kos non c'è nessun colore, solo una ricerca disperata. I lost my children in the sea and I come to looking for him. I go to Turkey 2 weeks and I looking, I do everything. But I don't, Jamal, iracheno, cerca suo figlio. Lo cerca da quando la barca su cui ha tentato di attraversare il mare assieme a suo fratello più grande si è rovesciata. Tra chi è riuscito a nuotare fino a riva, lui non c'era. Voleva una vita migliore, mi dice Jamal, perché in Turchia noi profughi non siamo niente. Vuole cambiare questa vita, perché in Turchia è una vita difficile, perché in Turchia non sono rifugiati, non sono niente, solo stai. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.